In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola. Di Enrico Ruggeri. La grande guerra. Oggi abbiamo due protagonisti, anzi in un certo senso ne abbiamo tre. Il primo si chiama Giovanni Busacca, milanese, e il secondo, romano, si chiama Oreste Iacovaci. E il protagonista reale, però insomma lo scenario è protagonista terribile, la Grande Guerra, quella che tra il 1915-14 per gli altri e il 18 ha coinvolto l'Italia, guerra di trincea, su per i monti, nelle Alpi, nel Carso, una guerra terribile, lunga, sfiancante, atroce, ovviamente anche con atti di eroismo, a volte anonimi. E la vicenda che vogliamo raccontarvi oggi riguarda proprio due eroi per caso, due uomini comuni che una notte vanno a dormire con le loro paure, con le loro miserie, con le loro piccolezze, il mattino dopo si svegliano scoprendosi patrioti, ma non un patriottismo aulico fatto di grandi parole. Loro è l'orgoglio di chi sente amore per la propria terra, che per quest'amore e anche per disprezzo verso il nemico offre la vita per difenderla. Insomma, stiamo parlando di valori oggi ovviamente dimenticati, ma ai quali qualcuno rimane attaccato, e io sono tra questi. Quando è che si diventa eroi? Io credo ci sia un momento esatto, quando l'enorme amore che ognuno di noi ha per la vita lascia il passo a un amore diverso, a qualcosa di supremo, a qualcosa di più importante. Non so, l'amore per la giustizia, l'amore per la patria. Busacca e Iacovaci sono due uomini, due piccoli uomini innamorati della vita, della loro vita, eppure a un certo punto decideranno di sacrificarla in maniera inaspettata, forse anche a loro stessi, perché la guerra per chi la fa è un tentativo continuo, disperato, di sopravvivere, di farcela, di restare in vita. Lo racconta anche Emilio Lussu, per esempio, in un romanzo bellissimo che si chiama Un anno sull'altipiano. Il colonnello cercò ancora la borraccia e ne bevette un altro sorso. Dica al suo comandante di battaglione che, evitando il terreno battuto dalle mitragliatrici, passando più a destra, attacchi la selletta. Il suo compito è di riprendere la selletta. Il suo battaglione è in gamba? In gamba. Disposto a tutto? A tutto. Il colonnello, che aveva ancora in pugno la borraccia, mi offrì da bere. Dica al suo comandante che lei mi ha trovato qui, che lei ha trovato qui il colonnello Stringari, comandante dei gruppi alpini, deciso a morire. Signor sì. E gli dica che qui noi dobbiamo morire tutti. Tutti dobbiamo morire. Il nostro dovere è questo. Glielo dica. Ha capito? Signor sì. Ridiscesi di corsa e riferì al maggiore. Quando gli dissi che dovevamo morire tutti, il maggiore ruppe in bestemmie. Morire tutti. Incominci con il morire lui. Affare suo. Faccia pure. Per noi il problema è vivere, non morire. E il problema di vivere, come scrive Emilio Lussu, è quello che è per il momento sta toccando in sorte i nostri due protagonisti, di vivere, di sopravvivere. Per esempio, per quanto riguarda Giovanni Busacca da Milano, ogni mezzo è buono per cercare di evitare di fare il soldato, anche cercare di corrompere un soldato della fureria al distretto militare. Beh, il soldato in questione si chiama Oreste Iacovaci, qui i due si incontrano per la prima volta. Senti un po', sei di servizio qui te? Me pare. E molla. Romano, eh? Perché? Perché l'italiano in fanteria e il romano in fureria. Per la cronaca sto posto non l'ho scelto io. Io uso obbedir tacendo e tacendo morir. Va bene, lascia andare. Comunque dico, ci potrebbe essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che malgrado l'apparenza è contrario, c'ha la salute minata e non se la sente mica. E allora, vero, un rinvio, poi sdebitandosi, si intende. Sarebbe anche un'opera di umanità. Mo che dovrei dire io? È romano abile arrollato e il milanese riformato. Va bene, come non detto. Dopo aver fatto finta di niente, il furiere Oreste Iacovaci acconsente, dietro compenso, insomma, finge di poter fare qualcosa per evitare la guerra al Busaca, ma la sua è una piccola truffa ai danni di Giovanni, che invece verrà arruolato. E poco dopo, per puro caso, ritrova Oreste nella tradotta che li sta portando verso il fronte e ovviamente nasce una scazzottata tra Busaca, che è furioso per essere stato truffato, per essere lì per andare a fare la guerra, e questo furiere romano un po' sfuggente. Beh, tutto questo diventerà l'inizio di una grande amicizia. E in attesa di andare in prima linea, Giovanni e Oreste si ritrovano in un piccolo paesino che si chiama Tigliano. Sono lì col loro battaglione, arriva un altro battaglione, uomini appena tornati dal fronte che cercano un po' di riposo a Tigliano. Sono guidati dal tenente Gallina, che diventa il comandante della compagnia Gallina. È un uomo intelligente, spiccio, sa come trattare con quella accozzaglia di uomini che deve comandare, perché la prima guerra mondiale è stata anche questo: persone che parlavano dialetti diversi e che non si sarebbero mai conosciute. In fondo la prima guerra mondiale compatta un pochino il paese anche dal punto di vista linguistico, e questo tenente Gallina non si fa impressionare dagli scherzi sul suo cognome. Con flemma scende allo stesso livello dei suoi uomini, mantiene un lato abbordabile, un lato umano. Per questo accetta anche di fare il messaggero d'amore per il soldato Giacomazzi, che è un analfabeta e deve scrivere alla sua fidanzata analfabeta anche lei. Signor tenente. Signor tenente! No, Giacomazzi, per piacere, non ho tempo. Ma scusi, sono 5 giorni già che Teresa mi ha scritto, bisognerà anche rispondere. Giacomazzi mio, ma perché non te le fai scrivere da qualcun altro queste lettere? Signor tenente, se io legge siamo in 2, più c'è il curato del paese che scrive per conto di Teresa e siamo in 4. La cerchia, vorrei cercare di rimpicciolirla, sa, sono cosette io. Ah certo, scusa tanto, eh. Niente, niente. Va bene, passa più tardi in fureria. Ecco, grazie. Il tenente Gallina, il soldato Giacomazzi sono tra i tanti personaggi che stanno ruotando attorno a Giovanni Oreste nel campo di Tigliano. Tra i commilitoni c'è anche un siculo, Rosario Nicotra, che ha una passione per l'attrice Francesca Bertini. Poi c'è il napoletano Giardino, che è sempre pronto a fare scherzi, un veneto Bordin, che spilla denaro a tutti. Insomma, un'umanità variegata che sta a rappresentare l'Italia del tempo, con i suoi dialetti, con le sue manie, con le sue abitudini, gente semplice, spesso analfabeta come Giacomazzi, che deve ricorrere a ogni espediente per poter sopravvivere alla fatica della trincea, alla lontananza della famiglia, alla paura della morte. E Busaca e Iacovaci sono come loro, forse anche un po' di più, perché aggiungono a tutto questo una piccola vigliaccheria congenita, il desiderio di fare il meno possibile, di imboscarsi ogni volta che si presenta l'occasione. Quando gli uomini sono in congedo cercano tutti la stessa cosa: dimenticare per qualche momento la guerra, e possibilmente tra le braccia di una donna. È soltanto che il paese è piccolo e donne che sono disponibili a aprire le braccia, insisto sulle braccia, sono pochissime. In realtà ce n'è solo una, si chiama Costantina, una ragazza giovane, sola, indipendente. Lei esercita il mestiere di prostituta per mantenersi, però ha una sua fierezza e anche ha una certa scaltrezza nel gestire gli uomini che vanno a visitarla. Uno di questi uomini è Giovanni, che una sera, facendo il galante, cerca di infilarsi a casa sua e nel suo letto. Lei però con quelle chiacchiere la me voleva tor in giro, vero? Prenderla in giro io? Già. E perché? Mo? Ah no, guardi, guardi, mi dai credere. Fin da quando io ho fatto il militare, questa è la prima volta che il mio, come dire, beh, il mio sentimento, voilà, si trova così nobile e così leggero. Cara la mia signorina, signorina, come si chiama lei? Costantina. Costantina, bel nome, brava, brava. Sale? Sì, ecco. Grazie, gradisco. Proprio piccole, quelle manine, due farfalline lì. Birbanta. Come abbiamo capito, però, Costantina non è una che si fa fregare. Anzi, dopo la notte d'amore, ruba il portafoglio a Giovanni e lui non fa in tempo ad andarselo a riprendere perché il giorno dopo la sua compagnia parte per il fronte. E la guerra adesso è lì, davanti agli occhi, che chiede il pagamento di un pedaggio terribile, pedaggio di sangue, per lasciare che gli uomini possano attraversare una landa desolata con l'obiettivo di salire metro su metro per andare a conquistare Trento e Trieste. E durante un attacco muoiono in tanti. Giovanni e Oreste si salvano perché hanno ricevuto l'ordine di posare il filo elettrico per ripristinare le comunicazioni col comando generale. Ma è la prima volta che i due amici si trovano coinvolti in un combattimento. Cercano, come sempre, di salvarsi la pelle con ogni mezzo. Questo, ma cos'è, giusto? È sbagliato? Qual è l'atteggiamento migliore da prendere di fronte alla follia della guerra? E di nuovo ricorriamo alle parole che Elimio Lussu nel libro Un anno in altipiano fa dire a un tenente colonnello per raccontare la fatica del combattimento. Io mi difendo bevendo, altrimenti sarei già al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende bevendo. È da oltre un anno che io faccio la guerra, un po' su tutti i fronti, e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi, è orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti, da una parte e dall'altra. Eh sì, sulle montagne, dove c'è l'attesa in trincea e poi gli assalti terribili verso un nemico sconosciuto, lì si consuma la tragedia del soldato, magari che facendo una carica con i tuoi dietro, i carabinieri che hanno l'ordine di sparare qualora tu non abbia il coraggio di andare avanti. Insomma, l'unico antidoto contro questa follia probabilmente è nel fondo di una borraccia, un delirio alcolico che attenua tutto, che rende sopportabile perfino la prospettiva della morte, anche perché poi c'è solo da aspettare in trincea fino all'appuntamento successivo. La gente crede che la guerra sia dura solo quando che si spara. Noi sa quanto sia duro a star fermi qua col dadrio bagnà a aspettare il lancio che non arriva mai. Facciatemi rendere! La guerra non è altro che un lungo ozio senza un minuto di riposo. Giovanni Busacca ha ragione, le giornate del soldato sono questo, ozio senza senso e poi guerra. È la guerra di trincea, è la guerra peggiore, sei pronto a sparare ma sei in mezzo al fango, con accanto i tuoi amici, i tuoi commilitoni che muoiono, aspettando che venga il tuo turno tra la sporcizia, le malattie, i topi. Ungaretti, il grande poeta, ha fatto anche lui la guerra in trincea da soldato semplice, proprio come Busacca e Iacovacci. Nella sua poesia La veglia, nella quale descrive il compagno morto accanto a sé con il celebre verso «Non sono mai stato tanto attaccato alla vita». L'attaccamento alla vita, beh, è un bonus che vale per tutti, anche per il nemico. Un bel giorno di primavera, Giovanni e Oreste sono di pattuglia assieme a altri due compagni e succede che mentre gli altri due proseguono nell'esplorazione del territorio, loro sentono come il canto di un uccellino. Mentre cercano di capire se si tratti di un merlo o di un usignolo, scoprono che invece è un soldato austriaco. È lì sotto la loro postazione, sta fischiettando un valzer e sta preparando un caffè sul fuoco. L'uomo è inerme, inoffensivo, è colto in un momento di debolezza, sta cercando di fare una cosa normale, prepararsi un caffè. La guerra impone che gli si spari, lui è il nemico, per questo va ucciso. Però Busacca e Iacovacci non riescono a compiere questo gesto perché in quell'uomo riconoscono loro stessi, riconoscono il loro attaccamento alla vita. In quel momento qualcosa si è intromesso tra quel soldato e i loro fucili, si è intromessa l'umanità, quel sentimento che lega ogni uomo al suo simile. L'umanità si è intrufolata in quel lembo di terra di nessuno, tra le rocce, tra il prato, e l'umanità chiede che le si dia ascolto. Dai. Io sono un po' miope. Hai visto mai che non ho becco? Sei un pelandrone, sei altro che miope. Come tutti i romani. Appunto. Spara tu che sei milanese. Cosa c'entra questo? Io c'ho il principio che siamo tutti fratelli e sono contro la guerra io. Ma lui no, però. Ma cosa ne sai te? E tu che ne sai? Dai già. Senza contare che domani potrebbe essere lui che ammassa te. O te? Fammi e beve almeno prima il caffè. Che cosa aspettavate? Che vi vedesse e se la svegliasse? Andiamo! L'austriaco viene ammazzato dai due compagni che stanno tornando giù. Lo vedono. Vedono l'esitazione di Giovanni Oreste, lontani da quel breve momento nel quale i nostri due protagonisti sono riusciti a compiere il miracolo dell'empatia. Loro colpiscono all'istante l'austriaco, non hanno avuto il tempo di pensare, gli altri due, non hanno avuto tempo di commuoversi, non aspettano neppure che finisca il caffè. Chuck si vola. La grande guerra. Stiamo raccontando la storia di due piccoli uomini disperati, Giovanni Busacca e Oreste Iacovacci, due soldati che stanno disperatamente cercando di sopravvivere nella trincea nella quale stanno trascorrendo le loro giornate in attesa di sapere cosa succederà il giorno dopo, se vedranno ancora il sole. In realtà stiamo raccontando la grande guerra, la prima guerra mondiale, 9 milioni di morti tra i soldati, 700.000 in Italia, e Giovanni Oreste sono solo due uomini che stanno cercando di non andare a aumentare le file alla conta dei morti. Possiamo considerarli dei vili per questo, forse, ma in realtà sono esseri umani. E a proposito della grande guerra, Alberto Sordi si è espresso con queste parole. È brevissima la distanza tra viltà ed eroismo. Un niente. E il vero eroe viene considerato un vile solo perché vuole riportare la sua pelle a casa, salvarsi dalla catastrofe immane provocata dall'imbecillità di un mondo che scatena le guerre. Niente, quello che separa Giovanni e Oreste dal loro destino, chi sono? Sono due vigliacchi o due eroi? Per il momento sono due uomini che cercano di destreggiarsi tra l'assurdità, l'imbecillità, come dice Sordi, del conflitto, cercano di evitare la fatica, cercano di star dietro alle difficoltà della vita militare, ma anche di star dietro alle richieste degli ufficiali, che spesso sono assurde perché a loro volta rispondono a degli ordini che arrivano ancora più in alto, che arrivano da persone che non sono lì in trincea. E il meccanismo della guerra è questo: qualcuno che comanda, qualcuno che obbedisce, anche quando gli ordini sono in contrasto con il buon senso. Cadorna ne sa qualcosa, per esempio. Insomma, per gestire questo stato di fatto, Giovanni e Oreste si adattano, dicono signor sì anche quando bisognerebbe dire signor no. Oreste è zelante, apparentemente è sottomesso, a volte servile di fronte ai potenti, anche quando magari due minuti prima ha protestato assieme ai compagni per il rancio. Attenti! Riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo! E faccio distribuire il rancio. Sì, signor generale. Penso che i nostri giovanotti abbiano fame. Tu, assaggia il tuo rancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. La sciacquatura di marmitte, si provvede. Ciao, ruffiano, ma si ti parli? L'ho fatto apposta per vedere che diceva. Magari ci provava a dire che era buono. Sì, sì, lo so che il rancio è meglio di così, non lo si può fare purtroppo, ma ogni tanto bisogna pur dare qualche soddisfazione a questi ragazzi, no? Si accontentano di così poco. Rancio, ottimo e abbondante, va tutto bene, nessun problema, frasi che ripetiamo tutti i giorni per fingere che le cose ci piacciano davvero, del resto insomma comunque bisogna mangiare e poi ci vorrebbe anche un po' d'amore, quello che pensa Giovanni che per l'ennesima volta riesce a imboscarsi, ne approfitta per trascorrere di nuovo qualche ora in compagnia della bella Costantina. Inizialmente lui la vuole incontrare per riavere il suo portafoglio, ma la carne è debole, insomma dalle parole si passa in fretta ai fatti. Per il momento Busacca e Iacovacci sono fortunati e cercano di aiutare a modo loro la fortuna. Per esempio, durante la spedizione al centro di approvvigionamento per prendere dell'altro filo spinato e paletti per la trincea, arriva un attacco al loro battaglione. Loro quell'attacco lo guardano da lontano. In realtà la loro missione è compiuta, potrebbero tornare a aiutare i commilitoni, ma hanno la scusa che per i paletti c'è ancora da aspettare e loro insomma non si fanno pregare, fanno l'ennesima piccola vigliaccata, evitano il confronto col nemico e il giorno dopo arrivano al loro campo e i compagni morti sono tanti. C'è Giacomazzi per esempio che non potrà più ricevere le lettere che lui non sa leggere, le lettere della sua ragazza. C'è anche il tenente Gallina che quelle lettere gliele scriveva. C'è anche Bordin, quel veneto che cercava con ogni mezzo di tirar su qualche soldo perché a casa aveva 5 figli da sfamare. Lui che era il più bravo di tutti nell'arte della guerra, questa volta non ce la fate di fronte al disastro. Il caporale accusa Giovanni e Oreste, chiede al cappellano dove sia finita la giustizia divina. Padre, qua c'è qualcuno che deve fare un voto per grazia ricevuta. E non è che se c'eravamo noi, le cose andavano meglio. Voglio andar via! Bordin. Ha rischiato tante volte la vita per 4 soldi. E questa volta è morto gratis. Ma Cristo, dove sei? È qua con noi, sergente. Se è vero che ha 33 anni, è dell'84. E dopo la carneficina al battaglione viene concesso un periodo di riposo in un piccolo paesino. Giovanni e Oreste vorrebbero invece arrivare fino a Udine, dove c'è più vita, è un progetto costoso e per questo Oreste ha l'idea, durante una serata di lettura di poesie patriottiche, sfrutta l'esaltazione dei paesani per fare una colletta a favore dei soldati, intascare i soldi per andare a Udine. Quando arrivano in stazione per prendere il treno, però incontrano una donna che sta cercando Bordine, il loro compagno appena morto, è la moglie che è ancora all'oscuro di tutto, che ha un pacco con della biancheria pulita da recapitarli. I due non hanno il coraggio di dirle che il marito non c'è più, basta uno sguardo di intesa e entrambi danno le monete appena guadagnate con l'inganno alla madre dei 5 figli di Bordin. Il confine tra la viltà e l'eroismo, vedete, sta diventando sempre più sottile. C'è questo sentimento fortissimo, l'attaccamento alla vita. Ecco, a volte però Giovanni e Oreste riescono a fare del bene, sanno riconoscere le priorità terribili, le necessità che la vita impone, rispondono immediatamente, ma solo quando si tratta di sentimenti, di affetti. Succede la stessa cosa quando per caso passano per un paesino dove Giovanni sa che si trova a Bali al bambino di Costantina, lo vogliono conoscere, Giovanni vuole conoscerlo, vuole proteggerlo, quando lo trova scopre che c'è lì anche lei, insomma tra lui e Costantina c'è un breve scambio. Te non ti sei ricordata del mio nome? Già, ma il cognome no, casomai solo la paternità. gogoletto sulla tessera quando avevo il portafoglio. Va bene. Scusa, lei è un disonore? No, anche a me sono come te. Figlia di Anne Anne? Lo vedi? Ecco perché c'è questa simpatia fra noi due. Siamo un po' parenti in un certo qual modo. Dove sei che ti manda? Non lo so, so mica io. E te? Dov'è che vai? Non lo so, voglio portar via il bambino. Eh già, è giusta. Venga. Ciao. Ciao. Io. Anch'io. È l'ultima nota bella, questo incontro alla luce del sole. Sembra una giornata normale, c'è una donna che ti guarda negli occhi, un bambino che gioca, c'è il profumo dei fiori, insomma è un attimo che dura poco come tutti gli attimi belli, perché c'è una nuova missione da compiere, bisogna andare a mantenere un avamposto. E i Fanti, Busacca e Iacovacci arrivano lì assieme al loro battaglione, c'è una pioggia battente, l'ordine è quello di tenere la postazione il più a lungo possibile, insomma iniziano le operazioni di messa a difesa di un vecchio casolare di proprietà di un contadino del luogo. Gli ordini sono abbattere gli alberi secolari, quelli che gli antenati di quel contadino hanno piantato per far ombra alla casa, bisogna ridipingere di un lugubre nero i muri che sono troppo chiari, bisogna rompere per i vetri delle belle finestre per evitare che di notte con la luna possano riflettere la luce, cioè indicare la via ai cecchini. Insomma, la guerra passa anche su questa bella casa, la imbruttisce, la oscura, la cambia, la distrugge per sempre. Serve poi qualcuno che vada a portare un messaggio alla batteria più vicina per avvertirli della costruzione di un ponte di barche. Per questo lavoro vanno scelti due uomini, vanno scelti i meno efficienti, e quindi Giovanni e Oreste. Chuck si vola. La grande guerra. Giovanni Busacca e Oreste Iacovacci arrivano alla batteria del tenente Castelli, recapitano il loro messaggio, hanno in cambio un fiasco di vino come premio e stanno per abbandonare il luogo, sempre sotto una pioggia, scorgono una stalla e in pieno stile loro dormono lì in questa stalla sulla paglia invece che tornare subito all'avamposto e prestare aiuto, anche perché c'è aria di battaglia. Solo che nella notte ai compagni arriva l'ordine di lasciare il luogo e di ripiegare, quindi quando i due si svegliano sono andati tutti via, insomma loro sono improvvisamente in territorio nemico senza saperlo, anzi sono talmente ignari del fatto che quando trovano due cappotti nemici abbandonati li indossano per combattere il freddo e l'umido, un gesto comprensibile ma pericolosissimo perché vengono scoperti e presi per spie. Vestiti da soldati nostri? Dire perché. Dai. Parla te, che sei il più anziano. Può essere spie, credo. No, no, no, quali spie? Noi siamo soldati degli anni. Naturale. Ecco, guardi sotto. Lo vede? Guardi sotto. Sotto? Non sopra. Non guardi che lei si sbaglia, sa. Se si offese per nessuno. Perché qui prima, oui, c'era una batteria nostra. C'era un capitano che stava seduto proprio lì, a posto suo. E certo, quindi noi essere venuti a dire da parte di Bollo Dondo che essere un altro capitano, che stanno facendo un ponte di barche per i rinforzi a... Oreste Iacovacci da Roma per l'ennesima volta si dimostra un pessimo soldato, ingenuo, e si lascia scappare quella parola ponte di barche, insomma si mette nei guai, si ferma appena in tempo, ma da quel momento la loro sorte è segnata, vengono considerati spie, vengono considerati in possesso di informazioni preziose, non hanno opzioni davanti a sé, vengono di nuovo richiusi nella stalla. Giovanni non può trattenere la sua rabbia contro Oreste. Ma non c'è più tempo per arrabbiarsi, la situazione precipita, Giovanni e Oreste vengono richiamati dal capitano austriaco, rimane solo il tempo niente a stringersi la mano. Loro non sanno ancora quale sarà il loro destino. C'è da ritrovare un momento per salutarsi. Insieme ne hanno passate tante. Sono simili, sono affezionati alla loro pelle, Oreste e Giovanni. Sono abituati entrambi a muoversi nel sottobosco. Non c'è niente di nobile in loro. Se per nobiltà, insomma, pensiamo ai proclami, ai gesti eclatanti. Eppure queste piccole vite possono riservare delle sorprese nei grandi momenti e negli attimi supremi. Vengono riportati davanti al capitano austriaco e quando arrivano loro sono intenzionati a rivelare tutto per salvarsi ancora una volta la vita, ma accade qualcosa che cambia tutto. Il capitano dà per scontata la viltà di Giovanni Oreste. Appena li ha visti li ha inquadrati subito. Sono due nullità, due vigliacchi senza onore. È certo che riveleranno le informazioni. Ha perfino scommesso con il suo secondo ufficiale, puntando dei soldi sul tradimento dei due italiani. Ma le scommesse in guerra non vanno fatte, perché la guerra è imprevedibile, compie grandi trasformazioni in tutto, nel bene e nel male. Di fronte al veleno che l'ufficiale esprime e nei confronti della patria, di fronte al disprezzo verso l'Italia, in Giovanni si materializza improvvisamente il germe del riscatto. Courage? Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque, dove? No, dico, cosa c'entra questo? Prego? Aggiù. Stai buono. E allora, senti un po'. Visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! Compromise! Giovanni scambia la sua vita con l'onore. L'onore. Sa che il suo destino è segnato. Sceglie con coraggio di morire davanti al plotone dell'esecuzione e si trascina dietro uno sconvolto Oreste. E adesso tocca a Oreste decidere se tradire o morire. Oreste è ancora più piccolo di Giovanni. Prova disperatamente a sopravvivere, ma senza svelare le informazioni cruciali. Nega, piange, dice che solo Giovanni conosceva il luogo esatto del ponte delle barche. Non gli credono, viene portato davanti al muro dove c'è già il cadavere di Giovanni. Oreste prova ancora a negare e alla fine, quando tutto è perduto, confessa il suo vero, unico peccato, la vigliaccheria. Confessa tutto, ma non il luogo nel quale si trova il ponte. Quello no. No, no, no. No, a Gio. Io ho paura. Ghiria! Lorenz! E allora? Io non so niente! Se lo sapessi, me lo direi! Io sono un vigliacco! Lo sanno tutti! Grazie al sacrificio di questi due piccoli antieroi che eroi diventeranno, la postazione viene riconquistata dagli italiani e durante l'assalto, come sempre, mancano all'appello Giovanni Busacca e Oreste Iacovacci. I loro compagni pensano che si siano imboscati ancora una volta, ma non è così. Alla fine della battaglia un lembo di terra torna alla patria, anche se sul fango giacciono tantissimi corpi e tra questi mancano quelli di Giovanni Oreste, morti senza che nessuno lo abbia mai saputo, morti per mano degli austriaci. A volte però nell'oscurità del loro gesto la luce è ancora più viva. Oreste e Giovanni sono due piccoli fasci di luce che brillano nella notte dell'umanità. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni.